Polveri. Radio Bomba. This is Radio Bomba. E buonasera e bentornati a Fuoco alle Polveri. Eccoci qua. Blago, ci sono. Molto ritardo. La mia voce non si sente bene, o sbaglio? No, ci sei. Sente? Ok, allora sono io e non la sento bene. È un problema soltanto mio. E finché è un problema mio non interessa un cazzo di nessuno. Grandi Radio Wombat, come state? Bene. Tutti bene? Bene. Un po' caldati. Siamo qua dai Wombat Studios, dove ci sono 47 gradi. E niente, voi come state? Bene, tutto bene, già caduto. Vi state sciogliendo come ghiaccioli scioglievoluti. Sì, accaldato. Benissimo, con questo slancio di fine primavera, inizio estate. Niente, partiamo con le belle notizie. Direi. Abbiamo un ospite qua e andiamo a parlare di liete nuove. Non anticipiamo niente, non spoileriamo, ma tanto lo sapete già perché tutti gli ascoltatori di Radio Wombat sono informatissimi. Questo lo sanno tutti gli ascoltatori di Radio Wombat, perché si informano anche sul fatto di essere informatissimi. Ci dica. Ma mi si sente? Sì. Sì, certo. Sì. Ciao, io sono Matteo. Ciao. Sono quello che ha fatto il ricorso contro l'ordinanza Lega al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, e che incredibilmente ha vinto la causa. Sì, e quindi ero già stato qui a parlarne l'altra volta, in quanto io ero uno dei, come dire, ero nel centro del milione, ero uno dei bersagli dell'ordinanza, in quanto ho un paio di denunce per i reati che sono rientrati nell'ordinanza, ma sono incensurato, cioè non sono stato riconosciuto dallo Stato come criminale, eccetera. Non sei questo, condannato, ecco, non sei sono denunciato, stato condannato, sono denunciato e basta. Quindi okay. Si è spesso risolto, si è risolto tutto in un nulla di fatto, quello che mi riguarda, si può dire. Ok, quindi giustamente dici, cioè il commento tuo era ovviamente, oh, ma non mi hanno manco condannato, cioè ora... Ma infatti la storia, ora racconto un po' la storia perché, certo, è interessante secondo me. Allora, io quando ho visto uscire l'ordinanza ho detto, ma veramente anche solo per i denunciati? A quel punto ho chiamato il mio avvocato penalista, gli ho detto, scusa, ma è così? Fa, mi sa di sì, fammi dare un'occhiata, se è così è veramente inaccettabile. Legge l'ordinanza, dice sì, effettivamente è una roba fuori di testa, ci sarebbe da fare ricorso, vediamo un attimo. Ho detto, boh, e che devo fare nel frattempo? E fin qui grandissimo, perché penso che sia il passaggio dovuto da fare, nel senso, cioè, se uno c'ha un amico avvocato o qualcuno, o si trova ad avere a che fare con avvocati, avere un numero di un avvocato, ci sta di telefonargli quando succedono queste sorpresine, o là, cioè non lo so, ce la siamo viste. Perché poi spesso ci sentiamo anche indifesi di fronte alla macchina statale, invece è bene anche rendersi conto che ci sono gli strumenti per reagire in qualche modo. Questo, certo. Diciamo, è la croce delizia dello Stato di diritto. E gli avvocati, appunto, che poi mi hanno contattato, il mio avvocato penalista si è messo in contatto con un amministrativista, suo amico, il quale ha detto, sì, è roba veramente intollerabile, dobbiamo assolutamente fare ricorso, trovami qualcuno che lo voglia fare. A quel punto mi ha richiamato, io nel frattempo sono un attivista di Potere al Popolo, stavo già facendo iniziative, eravamo nel periodo di Pasqua, stavamo già facendo iniziative contro le zone rosse, io sono intervenuto personalmente in piazza dei Ciompi durante un paio di iniziative, mettendoci così dire la faccia, il corpo, col cartellino, io non posso stare qua, e così via, con la Digos che mi faceva le foto, eccetera, certo, eccetera. Certo, io mi sono fatto una bella suonatina sulle strade. Esatto, diciamo, eravamo insieme entrambe le volte. Certo, ci sto a bestia su questo violarle, ecco, le abbiamo violate con tutta la nostra... Esatto, ci abbiamo visto, quindi diciamo che si cercano tutti gli strumenti per combattere una cosa del genere, anche perché è una cosa in fondo di basso livello, nel senso che arriva un'ordinanza del prefetto, quindi non è che una legge dello Stato, quindi sul livello locale si può fare molto. Anche e quindi come cosa hai fatto? Cioè, quindi la cosa interessante è che poi sono stato ricontattato io da questi avvocati, che preoccupati appunto per la salute dello Stato di diritto, in quanto la misura era veramente poliziesca, era veramente da Stato di polizia, da deriva autoritaria. I penalisti poi sono sempre molto garantisti e quindi sono i primi a accendersi su questo tipo di questioni. Si sono infiammati, giustamente. Si sono infiammati e quindi mi hanno ricontattato e hanno detto, guarda, noi ti si dà il patrocinio legale gratuito per ricorrere al TAR, quindi non ho speso una lira, e ho detto, mi hanno detto, ci devi solo mettere il nome. Ho detto, perfetto, ci devi solo mettere la firma. poi facciamo tutto noi. Comunque è grande che, cioè, se non c'eri te, nel senso, no, l'ordinanza era ancora in essere, sarebbe, infatti, è interessante, cioè è strana questa cosa, mi fa strano in qualche modo, ma mi dà anche il senso che purtroppo le risorse che abbiamo a disposizione dipendono anche appunto dai contatti, dalla cultura, dagli ambienti che ha frequentato. Io ho avuto, diciamo, la possibilità di frequentare un liceo, e quindi di stare in contatto con persone che poi sono diventate, per esempio, avvocati. Certo. E fra virgolette approfitto anche di questi contatti quando è possibile, come in questo caso. Ma è giustamente, cioè, non ci vedo niente di male, e anzi, meno male, c'è gente che fa come te. E buono, nel senso, non è per, cioè, a parte bravo, te l'abbiamo già detto, perché sento il viva. Però a parte quello, nel senso, non soltanto per celebrare un gesto, ma per dire che gesti del genere possono servire alla collettività e possono, nel senso, restituire in questo caso, esatto, degli spazi a persone che, nel senso, si parlava di denunciati, quindi, nel senso, non si parlava nemmeno di condannati. Ma già abbiamo visto anche gravissimo. il primo caso di allontanamento è stato significativo, cioè una signora onesta lavoratrice stava aspettando l'autobus, ci aveva una denuncia 10 anni prima per percosse, certo, per due schiaffi, ovviamente straniera, tra virgolette, ovviamente straniera, senso, perché lì c'è sempre anche una nota razzista, quindi la controlli di base, no? Perché sì, la controlli, vediamo un po' che fa, e quindi l'hanno allontanata, è venuta fuori la cosa. Però effettivamente è stato il casus belli, se ci pensiamo bene, cioè quando ci sono queste cose qua e sono così assurde e si fanno autogol da soli in una qualche maniera, cioè perché gli avvocati si indignano, roba anticostituzionale, cioè non so. Sì, lì ora, visto che siamo anche fra, diciamo, fra compagni, c'è un altro aspetto a me che però mi, certo, colpisce, certo, e mi fa preoccupare, se vogliamo, perché poi è interessante questa ordinanza emessa dal prefetto con l'approvazione di Nardella, poi di fatto diventa una battaglia di Salvini in qualche modo, perché ne rappresenta l'ideologia, no? Per cui Salvini, il giorno dopo che l'ordinanza è stata cancellata, è partito subito col buon vecchio attacca ai giudici, certo, ha detto vabbè, allora si schiera, sì, tutti, certo, i giudici, certo. Allora, oddio, questo però mi fa ricordare 10 anni fa il clima berlusconiano. Vabbè. Allora, come andava a finire quella storia? Cioè, che Berlusconi attaccava il giudice e tutto a dire minaccia lo Stato di diritto. Poi alla fine Berlusconi cade, vengono i governi tecnici, si fa un altro po' di riforme che, certo, si sa che servono sempre i soliti interessi, tutti contenti, passiamo al livello successivo, sì, che ora è Salvini e domani chissà. Quindi mi preoccupa questo bene, insano, diciamo, intreccio che c'è in Italia fra il capro espiatorio e quelli che poi in realtà fanno le cose anche sull'immigrazione e sulla sicurezza. Sappiamo benissimo che quello che oggi è il PD è stato il primo a aprire la strada ai tempi con, certo, Turco Napolitano, oggi col decreto Minniti, quindi sì, ricordiamoci, sì, certo, sempre dall'altra parte, cioè che non c'è un'altra parte lì, la deriva mondo securitaria è diffusa, la deriva securitaria è diffusa, trasversalmente, quindi, tra il centro-sinistra, che ormai anche chiamarlo centro-sinistra mi sembra quasi un eufemismo, no, ovviamente metteci anche solo sinistra, fagli un nella parola, sì, fagli, sì, un complimento eccessivo, però alla fine guardano in tanti la televisione, connotiamoli come sono connotati nel, certo, per farci capire in qualche modo, per tagliar corto, però comunque è una cosa che taglia trasversalmente tutti i dibattiti sul degrado, il decoro, la sicurezza, e questo non si qui, fa, e quest'altro non qui si in fa, città, cioè, con Nardella lo vediamo perfettamente, certo, tanto più che era interessante, ecco, nelle motivazioni, anche in quello che diceva l'avvocato amministrativista, c'era sto fatto, dice, non si può sacrificare sull'altare della percezione di sicurezza neanche dei cittadini, sì, ma dei turisti, le libertà personali, cioè i diritti fondamentali sanciti, sì, dalla, sì, Costituzione, sì, certo, cioè non è che il benestare dei turisti è una questione di emergenza nazionale per cui puoi varare misure straordinarie anche nell'ottica, cioè, roba da antiterrorismo, no? Sì, perché, sì, siamo a questi livelli qua, andare a giro felici, cioè mi sembra veramente roba, no, è follia, però ci fa capire anche il livello a cui siamo ormai. No, no, certo, certo. Con i crimini violenti in calo continuo, ma si fa un terrorismo sempre maggiore e diffuso, certo, si sa chi, insomma, chi sono i veri terroristi, sono quelli che spacciano il terrore dalle televisioni e dai giornali. Vabbè, certo, tutti quelli i giorni che creano questi mostri, sì, inesistenti alla fine, no? Cioè, boh, non lo so, mi viene sempre in mente tutte le persone che invocano all'immigrato che li ha molestati in una qualche maniera, no? Quanti ne abbiamo sentiti, quanti ne sentiamo nei commenti, spazzatura di tutte, di qualsiasi cosa, sì, che tutti vada a vedere, no? A me piacerebbe veramente capire che cosa vuol dire questo, cioè, nel senso, com'è che la gente arriva a declinare poi nella vita comune a dire anche bugie, a distorcere la propria realtà, partendo da questi, diciamo, mostri che ci vengono creati. Beh, secondo me è perché c'è la logica del capro espiatorio, cioè il momento è fare una vita in merda perché sei sfruttato, vivi in un ambiente completamente, certo, artefatto, artificializzato, spesso inquinato e così via, cerchi una soluzione semplice, cioè sì, è colpa, sì, dei negri. La vita fa schifo, è colpa, cioè, dei negri. Sì, cioè, questo, certo, certo, si, no, cerca immediatamente la soluzione più semplice, qual è? Dare la colpa a quello che è diverso, a quello su cui puoi gettare uno stigma e poi distinguerlo da te per dire non è colpa, certo, mia. A me fare... sembra comunque incredibile, si può dire, cioè nel senso... Però se ci pensi, cioè... è una generalizzazione di un qualcosa che ci può succedere anche nella vita quotidiana, nei rapporti personali. Io penso sempre alle relazioni di coppia, no? Allora, sì, un conto è litigare in coppia e magari litigare per andare oltre, per superare, per fare dei passaggi. Un conto è arrivare a quel punto in cui dice tutta colpa dell'altro o dell'altra, certo. A quel punto, come dire, la coppia è finita, la comunicazione si è, certo, esaurita. Allora questa uno è un'elaborazione paranoica, capito? Quindi, certo, cioè, esatto, cioè è tutta colpa dell'altro e così facciamo a livello di massa. È tutta colpa, certo, dell'altro, in questo caso il migrante, capito, arriva da un'altra parte, non è della stessa nostra cultura. Puntiamo il nostro ditone e speriamo che tutti guardino lì, individuandoci il problema, e nel frattempo facciamo tutte le nostre sudiciate e maialate. E bellissimo anche la chiacchierata sincera così de corazon. E sì, grazie davvero del tempo. Ma no, evviva, breve, grazie a te del tempo che hai dedicato, insomma, per tutti noi, perché alla fine si può dire, ecco, è grazie a delle iniziative individuali alla fine che spesso, insomma, si ottengono dei benefici collettivi, ecco, insomma, sì, basta che l'individuo non si senta isolato, ma si, certo, senta sempre in connessione. Se l'individuo partecipa, rende partecipi i compagni di una lotta che fa, cioè va bene, anche se parte, cioè, anzi, ben vengano le iniziative personali, evviva chi ce le ha. Grazie mille, grazie a voi, a maggior ragione, e di nuovo da parte di tutta Radio Wombat mandiamo un pezzaccio, pezzaccio? Questo è veramente un pezzaccio, la Frizzante, ce la questo dai, è veramente un pezzaccio, ce la dai Frizzante, è dai, un pezzo hardcore elettro del 94, direttamente dall'Inghilterra, dalla nascita della tutta la rave culture, ecco, okay, e ve lo sparo a merda così, sparacela a merda, dai, siamo pronti su Radio Wombat, ciao. Eccoci. Eccoci. No, non ci sei. Ah, ora ci sono. Scusate. Ti spengi il microfono. Eh sì, è colpa mia. Insomma, vi è piaciuta questa bella canzone trance che vi ho messo? Bellissima. Non l'avete neanche ascoltata. Stavamo gustando. Nel frattempo stiamo chiamando Bricco Baldo, che nulla ci spieghiamo. Cioè, scopriamo le carte su Radio Wombat. No, no, adesso. Cosa vuoi dire? No, qua nella redazione Wombat. Se sbagli ti spengo il microfono. Va bene, se sbagli spengi il microfono. Ma qua nella... Però mi sento in colpa e quindi mi tocca dirlo. Cioè, qua nella redazione Wombat c'è stato un battibecco tra due amici, il Bricco Baldo e Grippo e... Vabbè, vi risolverete tra no, di voi. Li risolveremo, però ci doveva essere anche Bricco Baldo. E questa cosa mi dispiace, però io l'ho risposto a cazzo. E quindi Bricco Baldo è un po' preso male. C'ha ragione Bricco Baldo, scusate Bricco Baldo. Tornerà Bricco Baldo sicuramente, che ora lo andiamo a fare. Va bene. No, scusate, ho sbagliato? Mi spengi il microfono per sempre? No, ti lascio acceso, dai. Non sono scusa Bricco Baldo. Sì, adesso scusa creativa. Cioè, scusa. Ma andiamo avanti, visto che abbiamo cominciato con ben 45 minuti di ritardo. E di cosa parliamo? Parliamo di quello che è successo in polveriera negli ultimi due giorni. C'è stato il primo esperimento di teatro, di festival di teatro in polveriera. Primo, giusto? O sbaglio? Non era mai stato fatto, tentata una più giorni teatrale? No. No. Ma c'era stata un'idea forse... Idee milioni, sempre. Però, sostanzialmente... Nulla. Sostanzialmente no. Ciao a tutti innanzitutto. Che bella voce che c'è qua. Mi sembra mi riporta alla mente un vecchi ricordi. Un fuoco alle polveri molto antico, sì. Con duetti con Tuco e questa voce anche. Ci avviciniamo alla puntata. Mi dicono che ha una voce assomiglia a diverse altre voci. Ah, bravo, bravo, bravo. Trasformista. Bene, abbiamo qui Tasso. Ha letto Tasso, proprio lui. Tasso, quello di ha letto Tasso, andatevi a riprendervi i vecchi podcast. Che ha tenuto, ha organizzato insieme a altri con amor di autogestione il primo festival di teatro necessario, giusto? Sì, questo era il titolo. Dopo gli ascoltatori si ricorderanno la telefonata di un paio di puntate fa. Uh-huh. Sì. Puntate fa. Quella preparatissima. Vero? Preparatissima, sì, è stato molto divertente. Sì? Sì, è stato come dicevate appunto il primo esperimento. C'era appunto questa volontà di creare un momento ad hoc per il teatro in polveriera che ha sempre suscitato interesse, c'è sempre stata voglia di fare qualcosa di più. E questa è stata un'occasione che si può dire, io stesso e tutti i polverosi stessi possono dire che è piaciuta, è andata molto bene. Infatti così, tanto per cominciare, vorrei direttamente ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato: Antonello Nave, Daniela Tamborino, il Teatro Contadino Libertario, Filippo Frittelli, e i ragazzi che animano il laboratorio teatrale alla Polveriera. Underwear. E anche tutte le persone che hanno attraversato questo spazio, hanno assistito agli spettacoli, nonostante il clima tropicale. Era molto, molto ardente la situazione. Molto ardente. Sì. Però devo dire che forse anche un po' aiutato, nel senso, nell'immedesimazione dello sforzo dell'attore. Ah, di sicuro c'era, secondo me c'era meno bisogno di riscaldarsi, sì, di prepararsi. C'era enfasi, era tutti c'era più sciolti. È stato di sudore, è stato di. Cioè, c'era proprio un discorso olfattivo anche, oltre che nel senso. Soprattutto domenica pomeriggio, esatto. Infatti, ieri è stata una bella giornata intensa proprio dal punto di vista. Abbiamo capito. Vabbè, questo è solo... Polveriera non ci andiamo perché fa troppo caldo. Questo è solo perché comunque ci sono tantissime iniziative. Infatti prima del festival, per non farci mancare niente, c'era la Roda di Capoeira. C'era la Roda di Capoeira. Grandi frequentatori ormai, si può dire quasi storici. Perché storici, sì, storici. Della Polveriera. Più che storici. Un bellissimo gruppo. Per non parlare della cosa, come si chiama? La Milonga? La Milonga New Entry in realtà, però non era ieri. No, non era ieri, però è stata questa settimana, bello. Sì. Giovedì. Mi pare giovedì, la gente a ballare così sotto il loggiato, insomma, belle cose stanno succedendo. Ora basta essere auto, cioè, basta. Però insomma, bello il teatro, il festival del teatro. Bello. Sì, è stato molto interessante, un momento in cui appunto si sono incontrati anche appunto artisti che fra di loro percorrono veramente dei percorsi diversi teatrali, dissimili fra di loro, che però hanno in comune appunto questa volontà di riportare, riempire, riproporre, ricomunicare concetti artisticamente, teatralmente parlando, portandoli appunto sulla scena. Come il festival appunto che iniziò sabato, si è stato aperto con un tavolo che è stato un incontro, esatto, fra i partecipanti, fra gli artisti partecipanti al festival, dove appunto sono state messe sul tavolo, a confronto, le proprie esperienze personali. Da qui è nata una chiacchierata, alla fine, mm-hmm, è stata una chiacchierata molto piacevole, che ha fatto venire fuori appunto questa necessità, guardando la realtà teatrale oggigiorno che ci circondano nei teatri, nei canali ufficiali, dove in un mondo come che va sempre più veloce, dove naturalmente mezzi come la televisione, il cinema, internet, gli smartphone la fanno da padrona, e quindi di conseguenza gli utenti, i consumatori, da questo punto di vista dello spettacolo, vengono intrappolati e si abituano di conseguenza. Ciò rende molto più difficile fare del teatro e, detto in una certa maniera, fare del teatro appunto interessante, del teatro che sia utile, ecco, che sia utile. Sono venuti fuori ragionamenti che condivisibili, almeno fra chi ha partecipato al tavolo, dove è stato detto che anche quando uno affronta spettacoli nel circuito ufficiale, spesso e volentieri si rimane abbagliati dalla presentazione, dall'apparenza, sì, certo, perché comunque confezione. È difficile trovare uno spettacolo che possa essere deprecabile al 100%, perché comunque c'è sempre un lavoro scenografico, c'è stato, di luce, c'è, tutto. Ma appunto è spogliato completamente da contenuti e da eventualmente proprio una funzione sociale, che è quella che è ricercata dai partecipanti, da coloro che hanno partecipato, sì, che al festival. Forse dirò una cazzata, che però forse, secondo me, deriva anche dal fare del teatro un mestiere. Sì. Pochi sono i mestieranti artistici che riescono a mantenere effettivamente un, possiamo dire stupidamente, sia un livello alto artistico, ma anche solo un livello di intenti buono. Cioè, ci deve essere un reale bisogno di comunicare qualcosa attraverso il mezzo scelto, e è sempre, spesso, tu stai parlando dell'arte in generale, sì, vabbè, del teatro, certo, ma okay, che poi okay, va anche nell'arte in generale, sì, nel, sì, teatro, sì, molto, come anche nel cinema, per esempio, cioè in tutto quello che solitamente richiede anche richiede diverse persone, diverse maestranze, tempi molto lunghi e cose del genere, di quanto spesso si cada nel commerciale, cioè nel fare, produrre cose per camparci. Sì, no, e più che altro produrle secondo un determinato schema, cioè a me questo mi sorprende, cioè mi piace molto il discorso che hai fatto te, ma lo amplierei dicendo che proprio a me la cosa che fa schifo è la standardizzazione dell'arte, cioè se si guarda la televisione, se si guardano determinati prodotti, cioè chiamati anche artistici da molte persone, cioè la grande produzione per i grandi numeri adesso è un po' impacchettata più che prima, è tutta standardizzata, anche la forma canzone, non lo so, stiamo assistendo a tanti... Te hai parlato, ti ho fuori la televisione, anche perché ormai quella va avanti a format da tanto tempo, cioè, certo, quello penso sia una cosa proprio a sé stante, cioè molto difficile trovare cose... Sì, però riportare l'arte, qualunque essa sia, alla necessità di farla, certo, a mio avviso è uno dei ragionamenti più belli di quelli dei ragionamenti che possono salvare il mondo, non lo so, cioè nel senso, finché l'arte è fatta per quello, cioè comunque è l'arte bella, stessa è l'arte, cioè è arte, cioè. se no è artigianato, mi viene da pensare, no? Beh, cioè, già la parola arte, insomma, il significato di arte è originario, è tecné, viene da tecné, cioè che è la tecnica in realtà, certo, quindi cioè non è che si mette su due piani diversi, tipo, wow, Me lo faccio ho capito, però questo tavolo a questo punto che si è creato su Radio Wombat, siamo un teatroso, un video roba e un musicoso, quindi nel senso cerchiamo di trovare un terreno tranquillo. Secondo me non dovrebbero più esistere artisti, ok, ma tutte le persone dovrebbero fare almeno un'opera d'arte nella propria vita. Grande. O comunque dedicarsi, uscire da quel detto popolare, da quel detto comune che era impara l'arte e mettila da parte. Anche. Vabbè sì, dopo questa cazzata di lato. No, però questa cosa hai detto, ma è garbata, bella, bravo. Cioè, no, vabbè, evitiamo queste cose, però. No, evitiamo di complimentarci troppo. Cerchiamo dopo, aspetta, mi do le pacche sulla spalla. Cerchiamo di tornare un attimo sul teatro necessario. Necessario. Perché è necessario sto teatro, porca miseria? Questo vogliamo sapere. Necessario, anche per le cose un po' preannunciate in questo scambio di parole. Alla fine, parlandone apertamente, l'offerta... Ma diciamo... la musichina sotto ce la metti? Calmo, è finita quella prima e ora riparte. Scusate. Parte vai. Esattamente quando intende farlo. Vai. Insomma, la proposta presentata nei circuiti ufficiali, semplicemente anche per motivazioni economiche, bisogna rispettare certi tempi, certi costi, e quindi naturalmente tutto ciò ne va a discapito appunto del prodotto finale, dello spettacolo, della messa in scena che io intendo rappresentare. Poi, sempre parlando apertamente, esistono tante personalità, tanti gruppi che quando raggiungono il cosiddetto finanziamento pubblico o riescono a raggiungere il determinato fondo si adagiano. Ma hanno appunto trovato un lavoro e quindi trovano anche un format, si standardizzano, questo stai dicendo? Sì, era tanto appunto per dargli una motivazione più a quello che si stava dicendo prima. Certo. E invece? Al contrario, invece di quello che si è provato, si prova a fare anche in polveriera, ed è per questo che spazi come la polveriera diventano molto interessanti, appunto anche necessari, proprio per raccogliere tutti quei desideri e quei bisogni che necessitano di essere comunicate, ritornare appunto alla funzione, cioè ritornare, recuperare, perché il teatro può essere anche intrattenimento ludico, solo per divertirsi, per stare a animo leggero, certo. Ma se deve cadere nella ripetitività o addirittura nella volgarità, rischia solo di aggrettire il pubblico e quindi o essere didascalico, il soggetto anche che deve ricevere i messaggi. Certo. Diventa certo. Un gatto che si morde la coda, insomma. Certo, però cioè, secondo me questa discussione che avevo fatto era carina perché cioè, il teatro, penso, insieme alla musica, insieme forse a un film, sono quei tipi di arte che ti arrivano subito e lasciano... Cioè, se non i più potenti, comunque fra i più potenti. C'è tanto spazio anche... per spiegarsi. Cioè, ora, una poesia di tre parole può aprirti un universo, no? Ma anche uno scarabocchio. Possono foglio, permettersi però... di essere più didascalici, anche per dirla in maniera attiva. Sì. Se lo sono troppo magari può non piacere, però nel senso, lo so, ci sono tanti didascalici importanti nell'arte, cioè, certo. Il discorso comunque è questo, è anche la potenza di forme artistiche come la musica e il teatro consiste nella capacità di smuovere l'animo, i sentimenti dell'ascoltatore, di arrivare subito, cioè, stiamo parlando subito. Di questa cosa, cioè boom, arriva, cioè, vedi un pezzo di teatro, ne sei investito in qualche maniera, come da una canzone che esce da un impianto, dalla voce, dal cuore di un qualcuno. Cioè, certo, non lo so, mi sembra funziona, proprio certo. Di. Sì, se funziona, se no sei un troiaio, gli tiri i pomodori. Però anche soltanto arrivare a tirarli i pomodori, secondo me è già una gran conquista. Cioè, anche se è sempre un risultato. Certo, è comunque un risultato. Portiamolo a casa e rivendichiamocelo. Quindi evviva il teatro fatto in questo senso qua. Mi sembra che molte delle forme artistiche si stanno vedendo in alcuni spazi sociali fiorentini, ma anche in altri posti, non è che siamo bellini solo noi, ce ne sono tanti e tanti che vanno difesi in questo momento. Tra l'altro, non lo so, sarebbe carino sentire qualche compagno di XM24 adesso per sapere qual è la situazione, oppure a Catania. Esatto, insomma, in queste settimane si lotta anche in Italia per spazi in cui alla fine si riesce a trovare nuovi modi di fare le cose, nuovi modi di socializzare, nuovi modi di vivere, anche di fare arte. Cioè, mi viene da pensare anche, non lo so, com'è che si sorpassano i dogmi sessisti, non lo so, com'è che si migliora, cioè, con la pratica, qualsiasi cosa la si migliora facendole insieme, e in questi spazi qua si vede si sta assistendo al fiorire, nel senso, di una nuova cultura dello stare insieme e quindi anche di un nuovo modo di fare arte, di fare tutto, no? E quindi, nel senso, chiudendo un po' questo sproloquio assurdo, nel senso, spesso le persone sono spaventate da determinati spazi in cui sembra, cioè, in cui la lotta si radicalizza, in cui, non so, in cui si prendono nette posizioni. Però in questi spazi qua, che noi tutti come Wombat e nelle nostre vite abbiamo la fortuna di solcare, ecco, insomma, cioè, ci sta molta ricchezza, ecco. E questo esempio del Festival del Teatro, cioè appena stato in Polveriera, ne è emblema supremo dal punto di vista del teatro. E non è che stiamo facendo troppo gli spacconi o gli sboroni dicendo questa cosa qua, è una cosa proprio vera, cioè, credo proprio che stia succedendo e che niente, godiamocelo tutti quanti insieme, basta. Sì. Anche dura. Arte, anche se si fa schifo, comunque stiamo facendo arte, ci stiamo esprimendo, quindi evviva. Mandiamo una canzone, cioè, scusa. No, calma. No, anzi, no, quello che dicevi è giusto. E alla fine, ora diventerò ripetitivo io, però il Prego. Problema è sempre questo, che sia il teatro, che sia la musica. Il problema appunto dell'arte è il problema di qualsiasi altra professione e o passione. Quando viene fatta, performata esclusivamente per la mera ricerca del profitto, di un guadagno, poi te magari certo. puoi fare una canzone, uno spettacolo teatrale sull'immigrazione, ma se lo farai solo quando avrai la certezza che ti ritornerà un profitto, un ritorno economico. Certo. E quindi anche è strettamente legato anche a quello, proprio nel momento in cui la partorisci l'opera artistica, adesso in tanti modi. Di partorire, di fare, di mettere in scena qualcosa, di fare qualcosa, poi determina il prodotto finale, lo spettacolo, l'opera d'arte finale. Non certo. sarà mai comunque pura o libera Illibar. Di esprimere quello che effettivamente c'era bisogno di esprimere, certo. la voglia di esprimere. Sì, sì, e molto spesso magari si tende, magari mi viene a fare un paragone sui film, no? Allacciandomi a quello che stai dicendo te, magari si spende milionate per fare un film con degli effetti speciali pazzeschi, che però, non lo so, fatto apposta per esplodere, lanciato in una determinata maniera per essere visto da tante persone e fare determinati tipi di incassi. Beh, però magari quel film non nasce da un'idea artistica bella. Vogliamo fare un confronto molto gretto fra gli Star Wars della Disney e i vecchi Star Wars. Porca, è un grande esempio. È un grande esempio, un grande esempio. E infatti lì si ritrova questo discorso della standardizzazione, che poi rifà lo stesso schema, perché hanno rifatto la morte nella nuova, hanno rifatto che la distruggiamo, hanno rifatto Preciso. L'arma ancora più forte, ma sembra Dragon Ball, no? Che tutte le volte, non lo so, facevi fuori Freezer, poi dopo il cazzo c'era Cell, non me lo ricordo nemmeno. Però un po' tutte sì, le volte un po' sì, confessiamolo su Radio Wombat, ma tutte le volte c'era sempre un cattivo più forte, ma tutto, vabbè, dai, è così che funziona, manga, tutto il mondo delle cose durano tanto, dai. È difficile, sì. C'è sempre il cattivone più cattivone e il buono diventa sempre più fortone e quindi sì. si va avanti. Sono i prodotti fatti per essere consumati ci so per lunghi tempi, certo. Ci sono questi pensieri, da una parte c'è sempre stato il pensiero, quando si parla appunto dell'arte, dello spettacolo, per essere più precisi, commerciale, che bisogna andare sempre incontro al gusto del pubblico, e poi si è deformato anche un po' a proponiamo noi al pubblico il gusto, e questa cosa brutta rischia anche di aggrettire proprio l'opera, insomma, lo spettacolo. Io lo so di che colpa, dici di è la colpa del capitalismo. Grande, grande lago, grande saggezza. E su questo io manderei un pezzo su Radio Wombat. Un pezzaccio su Radio Wombat. Grande lago, grande pezzo anche. Vai. Oh. Pezzo? Oh, grande lago, grande componenti tecnici. Rotto. Oh, tutta Cina aspettale. Parappa, questa l'abbiamo sentita. Rimettiamo questo. No, un altro pezzo. Sembra non gli piacciono. Vabbè, l'arte. Vabbè, fanculo, allora mi sparo questa. I'm Johnny Cash. Oh yeah. Come cose, la prima che ho trovato, quelle che avevo preparato evidentemente sono file corrotti, viva. Vai. conoscersi ed appartenersi, pizza al trancio, anestesia, fiori arancio, vuccinia, e inventarsi una bugia per rimanere soli, e se magari l'autunno è soltanto un'ideale da difendere, come i tuoi 501 rotti sui ginocchi. Ricorda queste notti, siamo come lenticini, impermeabili alla pioggia. Ora no, beh, però c'è, questo mondo a volte sai, è vero c'è, vuole parcheggiarti dentro un garage, ecco perché io con te guido veloce, tutta una salita su, fino all'apice, per poi ritornare giù, tipo salice, sotto un cielo blu stellato, alice, con una lattina come calice, e se magari l'autunno è soltanto un'ideale da difendere, come i tuoi 501 rotti sui ginocchi. Ricorda queste notti, siamo come lenticini, impermeabili alla pioggia, biciclette, nostalgia, rose gialle, gelosia, coca zero calorie, conoscersi ed appassionarsi, pizza al trancio, anestesia, fiori arancio, cucciria, per rimanere soli. Ne apro una da 66, sì, che poi sono gli anni di mio papà, sì. Aveva gli occhi tristi e macchina a battisti, guidare verso Jesolo, le mani sul volante, erano grandi come le zampe di un leone. Parlare, bere birra fino alla mattina, abbiamo un'anima latina, sempre che abbiamo un'anima. È finita? Ah, ok. Canzone di ripiego qui, sì, su Radio, sì, Wombat. Posso fare un po' di polemica? Non mi è piaciuto per niente. Vabbè, la prima che ho trovato che funzionava, no, che ho preparato, scusa, per oggi non andavano. Sì, sono un po'... Insomma. Forse Joao sarà contento. Joao sarà contento. Come cose in Brasile vanno? In Brasile vanno. Ah sì, lo so. Ma voleva dare un ciao saluto. Ciao Joao dal Brasile. Ah no, va bene. Voleva un saluto di Tasso? Sì, ma vuole un microfono tutto suo. Vuole un microfono tutto suo? Si espande su Radio Wombat, Tasso? Mamma mia. Qui agli Wombat Studios, senti? C'è spazio per tutti quanti noi? Okay. No, non, vabbè, abbiamo deciso prossimo, di sì. Dai. Non ti preoccupare, è anche un buon odore. È il ritorno di Tasso su un po' alle polveri, attenzione. Si è affogato, hai visto? Bastano 10 minuti di chiacchiere e subito, guarda, qui. Guarda. E poi non voi non, ovviamente, siamo in radio, non potevate vederlo. Poi lì mentre parlava, no, di teatro, di arte, che, vabbè, agitava il suo bicchiere d'acqua. Siamo, sì, contro l'alcol qui su Radio, non è vero? Sì. E era lì che, insomma, con le manine, sai, auliche. Ah, dovevo fosse... questa impressione, sì, ma era almeno bello, interessante. Certo, sempre, sì, certo. Sì. Ma diciamo... anche oltre. E fa anche le commedie. Siamo sul sexy. Che cosa stiamo, cioè, in che senso? Stiamo parlando, siamo, no, tornando al festival. Sì, ieri era stato. Ah, sì, ho avuto la possibilità di partecipare anche io personalmente allo spettacolo, l'ultimo spettacolo del festival. Presentato da Underwear Theater insieme, quando? A Filippo Frittelli. Capito? Commedia necessaria, sì, sì. Bufande, si dice veramente, cioè, sudicioni. Vabbè, questa puntata è molto strana, continuiamo con, vabbè, divertiamo con a questo punto, con non è pronta, non è pronta. No, sì, è pronta, ma secondo me parte a macchinetta, allora. Eccola. Senti, abbiamo, senti, qui, sta scaldando i motori. Eccola. Sta scaldando i motori, funziona il nostro cinema in polvere. Sta scaldando i motori, ma la stiamo sabotando non accendendo il microfono. Dovrebbe essere acceso. Sto sabotando perché non l'accendo mai. Ok. No, non c'è. Non c'è. Sì che c'è. C'è? Sì, c'è, c'è. Non so, ma... non sento un cazzo. Magari se stai un po' zitto. Scusa, ma vai. C'è del nervosismo, sbaglio. Sì, sì, sì, sì, sì. Oggi. Qua sarà il caldo. Il caldo. Ciao, ciao a tutti. Salgono il tasso di omicidi quando c'è caldo. Il tasso, sì, di omicidi. Il tasso di omicidi. Era la battuta. Nel mezzo. Era la battuta. Che bello, c'è il tasso. Poi ormai guardo sempre, ormai tutte le mattine mi sveglio con due puntate di Peaky Blinders e quindi ho voglia di accoppiare la gente. Dillo, dillo di chi è il merito, dillo. Quindi cioè, stai cominciando a girare con le lamette nel cappello. Così, sì, ti volevo, sì, esatto, sì, sì, sì. Bellissimo. Poi appena arriva Otomardi e poi smettiamo. Silenzio, basta, non mi fate andare oltre, è già caldo. Va bene, oggi. Cinema in polvere. Cinema in polvere, oddio, oddio. Allora, scusate, dalle polveri, allora, dove andiamo? Allora, andiamo innanzitutto, come sempre, partiamo dal fantastico Cinema Teatro della Compagnia. Perché questa settimana, ragazzi, che ci garba un sacco, hanno spaccato, spaccano veramente. Allora, oggi ormai ovviamente vi do quello di stasera, perché dice è alle ore 21, Secret Florence, quindi questa rassegna su, credo sulla Firenze Segreta, siamo così, evento speciale, Diamantino il calciatore più forte del mondo, attenzione per gli amanti del calcio. Questo film credo sia non ho capito bene se è un film documentario o proprio film. Bello. Diamantino è un campione di calcio di fama mondiale, un Cristiano Ronaldo, un piede d'oro, un inarrestabile genio del pallone. Come si chiama Diamantino? Diamantino, il calciatore più forte del mondo, di Gabriel Abrantes. Ma Alino Diamanti parla di diamanti, Alessandro. Lo sai che io sono un amante di altri sport, quindi... Dai Alino, foga. Possiamo dirlo, foga Alino, se lo... Chissà chi è. Non so chi è. Dai, viene anche nella viola. Tanta classe, tanta classe. Sì, dai, la viola? Che cos'è la viola? Viola? Sì, ragazzi, cioè, bene, io di viola mi metto solo lo smalto. Ma andiamo comunque... al cinema, cioè, a sentire cosa dicono i vecchi. Beh, allora, scusa. Comunque, niente. Allora, finché un brutto giorno, tutto il genio sparisce irrimediabilmente nel nulla attraverso le bizzarre vicende del suo protagonista. Tra visioni mistiche, barboncini giganti, figure pastello, super kitsch, da Diamantino si veste da commedia stravagante per giocare con l'intelligenza, con i conflitti della contemporaneità, dal culto delle celebrità all'ascesa dei deliranti pensieri anti-europeisti e dei populismi xenofobi, in collaborazione con lo schermo dell'Arte Film Festival. Ingresso libero su prenotazione, quindi siete ancora in tempo perché stasera alle 21. Ok, non parla di Alino Diamanti. Credo di no. Abbiamo capito di no. Ma va bene lo stesso. Martedì invece, ragazzi, evento speciale Festival Cinema e Donne, stanno facendo questa rassegna, diciamo così, un po' saltellante. Ma al Cinema Compagnia? Compagnia. Sì, sempre Cinema della Compagnia, scusate, Cinema Teatro della Compagnia. E io questo lo sostengo perché Searching for Ingmar Bergman, un documentario su Bergman di Marguerite von Trotta. Una validissima regista. E Marguerite von Trotta presenta il suo primo documentario dedicato alla relazione tra il suo cinema e quello di Ingmar Bergman. Quindi dunque un film di grande emozione, con l'entusiasmo e la felicità della creazione, ma anche la paura del vuoto e dell'inadeguatezza. Siete pazienti. Di fronte alla grande sfida col cinema, molti amici registi bergmaniani, ciascuno a modo suo, Carlos Saura, Solevera Assai, Ruben Ostlund, Mia Hansen Love, insomma, ma tanti tutti contributi. Sono tutti, no, che sento? Tutti buoni, sì, sì, abbastanza. Carlos Saura in particolare. Sì, ma poi non c'ho presente, però. Che accompagnano Margarete nella sua appassionata ricerca. Quindi un film dedicato al cinema, a Bergman. E chi è che non, insomma, chi è che non si può prostrare al genio? In più proseguirei con sempre nella giornata di martedì, quindi 11. Quindi questo era alle 15. Alle 17 in programmazione un film italiano, Bulli e Pupe, che non ho capito se è ripreso dal musical, ma credo di sì. Ma di ce la fai dalle 15 alle 17, si finisce per l'altro, ragazzi, così. Uno rimane lì, tranvia senza biglietto. I veri cinefili rimangono, Double Feature, e li vedono tutte e due. Così. Quindi un viaggio dentro l'Italia dal secondo dopoguerra fino all'alba degli anni 60, quando i ragazzi avevano vissuto impotenti gli orrori del conflitto, iniziavano a progettare un futuro nuovo. Tra balli e canzoni, appunto, viene dal musical, noto musical americano, Bulli e Pupe, che all'epoca vide Marlon Brando e Frank Sinatra debuttare. Tradizioni secolari e mutamenti repentini, il film del paese che comincia a diventare quello che ancora oggi conosciamo, punto interrogativo, un paese che un pugno di anni, visto un cambiamento come non viveva da secoli, Bene, questo è Bulli e Pupe, se vi interessasse, di Steve Della Casa, 2018. Bene. Steve Della Casa. Mercoledì invece, Della Casa Steve. Mercoledì hanno la solita rassegna che si chiama Scusate il ritardo, che loro fanno, no, ti prego, no. No, oggi rifaccio. No, oggi no, grazie. Veramente, voglio bene, ma oggi okay, no. Flashback, Scusate il ritardo, questo film appunto uscito un po' di tempo fa, Le Invisibili di Louis-Julien Petit. Quando il comune decide di chiudere l'Envol, un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora, quattro assistenti si lanciano in una missione impossibile: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo delle loro assistite, abituate a vivere in strada, molto bello, violando ogni regola e incappando in una serie di equivoci. Riusciranno infine a dimostrare che la solidarietà femminile può fare miracoli. Dignine. Anche qui ci aggiungerei il punto di domanda. Di nuovo in programmazione, quindi mercoledì alle 15 e di nuovo alle 17. Ok? Bella e di nuovo alle 19 e di nuovo alle 21. Quindi non, veramente non avete scuse. Beh, si va andare lì e c'è. E c'è tutti i giorni. Diritto. Giovedì invece, attenzione, Grande Lago, perché arrivano i film di Cannes. Can-can. Arrivano. Ah no, in realtà no. Volevo dirlo. No, venerdì ho cannato. Vabbè, scusate. Mercoledì ancora no, niente. Niente, in realtà giovedì c'è ancora di nuovo Searching for Bergman, Bulli e Pupe. Vabbè, vi rimando chiaramente sempre sì. Ma i cosi di Can? I cosi di Can arrivano venerdì. E arriva molto bello alle 17.30 direttamente Cannes a Firenze 2019, Bacurau, premio della giuria a Cannes, di Kebler Mendoza Filho e Giuliano Dornelles. Che cos'è? È con Sonia Braga, un grande cast. Nel piccolo e desolato villaggio di Bacurau in Brasile, gli abitanti si trovano ad affrontare strani eventi iniziati dopo la morte della matriarca carmelita, mancata all'età di 94 anni, mentre il paese scompare da tutte le mappe satellitari. Vengono ritrovati corpi crivellati di colpi. Gli abitanti danno vita a una rivolta contro il politico locale che ha preso il controllo dell'acqua. Bellissimo. Molto bello. Ma vera roba. Ha vinto la giuria. Ha vinto il premio della giuria. Una storia vera, credo sia tratto da una storia vera. Vai. Ovviamente tutte queste, cioè, tutte questi annunci che sto facendo sono tutti film che escono ora, quindi non li ho visti. Vabbè. Un po' sulla fiducia. Va sulla fiducia. Capito. Ma questo fuga comunque. Come si chiama? Questo si chiama Bacurau. Ok. E andrà in programmazione ripetuta. Ora ve lo ridico. Intanto questo venerdì alle 17.30. Alle 20 da Cannes a Firenze, sempre Tommaso di Abel Ferrara, il nuovo film di Abel Ferrara con William Defoe. Tanto per cambiare, William Defoe, così ormai è diventato l'attore fedizio di Ferrara. Tommaso è un artista americano che vive a Roma con la moglie Nikki e la loro bambina. La loro relazione è tumultuosa e Tommaso deve fare i conti con il desiderio della consorte di cambiare le regole del loro matrimonio. Così, sconvolgendo la vita semplice che l'uomo conduce a Roma, una città che lo vede ancora come uno straniero, un film intimista, come quasi sempre Ferrara crea. Ovviamente vedremo com'è. Io ho amato molto Ferrara. Ora, mi ricordo ancora il cattivo tenente. Siamo un po' Maronna. Allora, Cannes a Firenze 2019 continua alle 22, sempre di venerdì, con A Vida Invisible de Euridice Guzmão, che ha vinto un Centaur Regard, cioè anche qui mega cast. Rio de Janeiro del 1950, Euridice è una giovane talentuosa ma molto introversa, sua sorella maggiore Guida invece spigliata e socievole. Entrambe vivono sotto un rigido regime patriarcale che sono decise a sfidare. Le loro vite si separano quando Guida scappa di casa per non fare ritorno, mentre Euridice si impegna per diventare una pianista di successo. Quindi, insomma, dovrebbe essere interessante. Drama. Bene. È così. Poi, proseguendo con sabato 15, 17.30, continua a Cannes a Firenze, Alice e le Mer, premio Quinzaine de Realisateur. Alice et les Mers. L'Alice e il mare? Sì, dopo 30 anni in politica, il sindaco di Lione fa i conti con una crisi esistenziale, stanchezza insormontabile e mancanza di ispirazione. I suoi collaboratori decidono di assumere una giovane filosofa per aiutarlo a superare un momento difficile. La donna si ritrova catapultata in un mondo i cui usi e costumi le sono totalmente sconosciuti e molto francese, con un mega cast, Fabrice Luchini, Antoine Reynard, insomma molto francese questo vincitore della Quinzaine. Allora, 19.30, proseguendo sempre di sabato, di nuovo A Vida Invisible di Euridice. E poi alle 22 Bacurau, di nuovo premio della giuria, abbiamo già detto. Bene, domenica invece, sempre per Cannes a Firenze, un altro film appunto direttamente dal festival, Yves di Benoît Forgeot, di cui so poco. Leggo: Jerem si è trasferito a casa della nonna per comporre una canzone rap. Qui incontra So, misteriosa consulente di marketing che lavora per conto della startup Digital Cool, la quale lo persuade a provare questo Yves. Cioè, Yves è un frigorifero smart che dovrebbe semplificare l'esistenza. Diventa protagonista di questo film un po' siamo un po' in zona Black Mirror, qui mi sa. Carino, forse, chissà, da vedere. Sempre a Cannes, sempre per la rassegna di Cannes, alle 19.30, Alice e Lemaire di nuovo. Bam bam bam, alle 21.30 di domenica, Family Romance LLC di Werner Herzog. Bello. L'ultimo, ma che film, film è? Di Werner Herzog. Non ce l'hai la sinossi? Sì, Ishii ha un lavoro bizzarro ma relativamente comune in Giappone. Si spaccia per fratello, compagno, amico di chiunque sia disposto a pagare il prezzo giusto. Il naturale distacco con cui si destreggia nella sua professione vacilla dopo che una donna lo ingaggia nel ruolo di padre per l'introversa figlia adolescente. Questo secondo me a lei, signor Drago. Beh, Herzog, insomma, il meglio del meglio del meglio. Sì, anche se anche lui, insomma, qualche buca l'ha presa altrimenti. Vabbè, ho capito, ma ne ha fatti 100 miliardi. Sì, sono d'accordissimo. Il suo primo, il suo primo consiglio nella sua, diciamo, scuola di cinema clandestina era: rubate la telecamera se adoro, vi servono. Sempre, sempre adorato Herzog. Bene, bene, avanti, l'enfant terribile del cinema. Uno dei Cinema Spazio 1 invece, un altro spazio che ci piace molto e che questa settimana propone martedì 11 e mercoledì 12 versione originale sottotitoli in vari orari. Vi invito a guardare il sito www.cinemaspazio1.it. Quel giorno d'estate, un film veramente acclamatissimo, veramente di cui anche questo viene da Cannes, no? Questo viene da Venezia, non so se è stato premiato. È? Il problema del Cinema Spazio 1 è che ha cambiato il sito, fanno vedere poco la sinossi, però, David vive a Parigi e sbarca il lunario con piccoli lavoretti occasionali. I suoi unici contatti familiari sono la sorella Sandrine e la nipotina Amanda. Tutto sembra andare per il meglio, ma la vita di David viene sconvolta dalla morte improvvisa di Sandrine e durante un attacco terroristico nel cuore di Parigi. Oltre a dover affrontare lo shock e il dolore della perdita la sorella, David dovrà prendersi cura della piccola Amanda. Anche questo, insomma, molto intimista, molto francese. Bene, proseguendo, Cinema Spazio 1. E avevamo già annunciato due settimane fa, è ancora in programmazione, il film su John McEnroe, L'impero della perfezione, sul famoso tennista. Lunedì 10 e martedì 11, in vari orari, controllate. E qui di nuovo ci risiamo, che ancora non l'ho visto. E allora, American Animals. Nemmeno io. Questo American Animals, se io non vado a vederlo mi viene una crisi perché lo sto aspettando. Da un anno, martedì 11 e mercoledì 12, il fantastico film, fantastico non si sa, ma io glielo voglio dare così, sulla fiducia e sulla fantastic rapina. Film. Su questa fantastica rapina di un libro... di un libro raro di ornitologia, ospitato in una buffissima piccola università dell'Illinois, e i ragazzi della rapina, i fascisti dell'Illinois, esatto, i ragazzi della rapina si devono così inventare un metodo creativo per rubare questo libro. E è molto buffo il film perché, come dicevamo anche l'altra volta, non so se sono i reali, cioè ci sono i reali rapinatori e poi le loro controparti attoriali. Sì, sì. I reali sono i reali. Sì, sì, sì. Accidenti, si sono conservati bene, tutti sono fighi, però i rapinatori sono sempre essere fatti. Vivere nell'Illinois si conserva bene. Esatto, tanto che devi così fare nell'Illinois. Va bene, comunque, giusto le rapine. American Animals io ve lo consiglio perché ancora non l'hai visto. Ancora non l'ho visto, poi rimarrò malissimo, ovviamente è un anno e lo aspetto. Bene, proseguiamo sempre al cinema Spazio 1, Via del Sole, buono. Che fare quando il mondo è in fiamme, l'avevamo già recensito due settimane fa. È buono. Pare molto molto buono, sulla scia dei vari documentari su Selma, insomma i suoi vari documentari sul movimento nero. Buono. Una riflessione sul concetto di razza in America, un film corale a mosaico. Buono. Con varie storie che si intrecciano, dice bellissimo, acclamatissimo. Buono, buono, buono. Anche questo questa settimana. Chissà qual è la tesi che propugna, se spengere le fiamme o riaccentare benzina sul fuoco. Ah, di questi tempi. Sembra ci sia vari punti di vista. Ho visto molto. Ok. Un po' di C, insomma. Sì. Allora, invece chiuderei con il cinema Odeon. Comunque progressi. Allora, oggi vi vedo veramente... Calma, calmatevi. Ora spengo tutti i microfoni tranne il tuo. Oggi veramente? Ecco, guarda, 3, 2, 1. No, dai, mi sento sola così. Ok, vaffanculo, vaffanculo. Ah, ok, devi cominciare. C'era la polemica che continuava. Sì, va bene, al cinema Odeon invece prosegue come sempre la rassegna in lingua originale. E giovedì abbiamo da Cannes il debutto del film di Jarmusch. famoso film di Jarmusch sugli zombie. Finalmente, cioè finalmente, anche Jarmusch dopo dopo 2 o 3 anni dall'esplosione degli zombie. Esatto, perché Jarmusch, ragazzi, ne tira fuori uno suo. Da lui è un giusto, po' così, arriva prende... sempre un po' dopo. Beh, io non so, sono un po' preoccupata perché comunque Jarmusch negli ultimi tempi anche lui non è che proprio la capa di tutte. Insomma, è un po' quello che si diceva prima. Down by Law, che dire, di tutti i grandi film, sulla, anche se vuoi veramente un senso musicale del Coffee cinema. And Cigarettes. Coffee and Cigarettes, i suoi grandi attori feticcio. Bill Murray, che è di nuovo qui. Claude Sevigny, vedo la mia amatissima Tilda Swinton. Accidenti. Ah, Tom Waits, il suo grande Iggy Pop che fa lo zombie. Tipo. Il grande regista americano Jim Jarmusch torna con un film che ha aperto l'ultimo festival di Cannes. L'abuso spropositato delle risorse del pianeta ha provocato la frattura della calotta polare e lo spostamento dell'asse terrestre, scambiando il giorno con la notte e risvegliando i morti dal riposo eterno a Centerville, da qualche parte in Ohio. E qui questo Middle East americano, ragazzi, mi sta riprendendo forza. Cioè, anni di film. Riprendendo forma e forza. Ce la possono fare. Il mondo chiede il conto agli uomini, divorati nei diner, dentro i motel old school alla psycho, nei centri di detenzione, nelle fattorie, nelle stazioni di servizio. A difendere l'ordine e la cittadinanza ci sono soltanto Cliff Robertson, capo della polizia, che credo sia Bill Murray. Ovviamente sì, da ridere. E agente che sembra sapere tutto di zombie e di eradicazione dei morti viventi, e Mindy Morrison, poliziotta fifona che vorrebbe tanto fuggire lontano. Attaccati alle loro fissazioni terrene, come sempre nei film di Jarmusch, caffè, chardonnay, telefonini, chitarre, antidepressivi, e risoluti a divorare ogni essere vivente, gli zombie dovranno vedersela anche con Zelda Winston, presaria di pompe funebre e virtuosa della katana. Ci ha infilato dentro tutto. Qui è un Jarmusch versione Tarantino. Pop. Jarmusch realizza una commedia sui morti viventi e conferma l'orrore che gli ispira il mondo contemporaneo. Beh, Jarmusch non sta facendo niente. Faceva Raimi, Romero, Carpenter negli anni 70. Vediamo se Jarmusch gli dà un twist chi lo sa fare lui. Chi lo non sa. Lo so, forse lo un so. Pochino di fiducia sulle note di Sturgill Simpson, la cui canzone presta il nome al titolo originale, perché la canzone di Sturgill Simpson si intitola The Dead Don't Die e fa parte della colonna musica del film. Dead e sul die. Filo delle referenze Don Siegel, Romero, abbiamo appena detto Samuel Furrell, Kirkman, Frank Darabont, e via avanzano Bill Murray, Adam Driver e Claude Sevigny, abitue maggiori e cool dell'autore americano, ma sotto una luna tenace e disfunzioni inspiegabili che annunciano la fine del mondo, si trascinano lenti e spaventosi altri fedelissimi di Jarmusch come Erza. E chi è? Erza. Qual è? Il rapper Erza. Ah, ok. Erza, Iggy Pop e Tom Waits, tre musicisti che non esitano a tralasciare il microfono per fare il suo cinema. E vabbè, qui va avanti su Tom Waits, insomma, una sbrodolata, ok? Sbrodola su Tom Waits. Sì, no, certo, ci sbrodola Jarmusch, ci possiamo sbrodolare noi. Tom Waits, uomo dei boschi, è il solo autorizzato a osservare la catastrofe senza essere travolto, non avevo dubbi. Iggy Pop, già autentico morto vivente del punk, Gimme Danger, nel documentario di Jim Jarmusch su 2 anni fa, si aggiudica la piena decomposizione della carne, prima volta invece per Selena Gomez, pop star che invece si sta prestando molto al cinema, che incarna una giovinezza che vorrebbe scampare all'apocalisse, apparecchiata dalle generazioni precedenti. Su un pianeta dove tutto è fottuto, Jim Jarmusch esercita un'ironia irresistibile e rivela da capo uno stile che si fa morale e visione del mondo. Beh, accidenti. Si rivela morale. Accidenti. Ma vabbè, giovedì 13 giugno ore 21, venerdì 14 e sabato 15 giugno ore 18 e 9 di sera, domenica 16 giugno, lunedì 17, insomma fino al direi 23. Domenica 23 lo trovate in programmazione in lingua originale. Io credo sia un film da vedere veramente obbligatoriamente in lingua originale. Non si può vedere Tom Waits e Iggy Pop tradotti in italiano. No, deve essere abbastanza agghiacciante. È veramente un crimine per cui subire le peggio torture. Però secondo me può valere la pena tipo 5 minuti così per vedere che effetto fa. Cioè, se ce l'hai a casa sotto titoloni, non lo so. Sì, no, dicevo che è un film che comunque. Ma l'hanno doppiato mai? C'è tipo Down by Law. Voglio, sì, il Dracula di Bram Stoker, se lo vedi in italiano, era doppiato in italiano. Beh. Io c'avevo la cassettina. Perché Tom Waits fa l'aiutante. Un gattino. Ha doppiato bene, però. Sì, il doppiatore all'epoca era buono. Molto bene. Direi che invece, per proseguire e concludere con l'Odeon Firenze, abbiamo questo nuovo film, io credo veramente boh, vabbè, su per chi fosse interessato, su Elton John, guarda caso uscito nel mese del gay, ne avevamo già parlato. Mondiale, ne avevamo parlato del film su Elton John. Volta scorsa forse. Rocket Man. Sì. Io ho visto un po' le presentazioni. Ho sentito grandi lodi. Io non amo molto questi biopic. Non li amo. No, lo sappiamo perché. Perché Elton John, infatti l'avevo detto altre volte, io mi ripeto. Perché Elton John ha visto che i Queen sono diventati più ricchi della regina con l'uscita di Rhapsody. E ha detto, anch'io, scusa. Un sacco di spese. Fate con la sua bacchetta magica, ha fatto. Cioè, fatemi un biopic. Si parla assolutamente di omosessualità, non si affronta il problema un'altra volta di nuovo. Se no, figurati. Vabbè, lasciamo perdere. Lui è uno dei più biechi, tra l'altro, l'ha nascosto fino a veramente ieri. Là, quasi, dopo, finché proprio non si è sposato, non l'ha ammesso. Come nasconde la sua calvizie. Tra l'altro, gli è riuscito molto benissimo. Peggio. Tra l'altro, era più facile nascondere la calvizie che l'omosessualità, in ogni caso. Sacco di cappelli di piume. Comunque, ragazzi, per chi lo volesse vedere, è in programmazione al Cinema Odeon in lingua originale. Questo davvero credo vada visto in lingua originale, che c'ha tutti e ovviamente i pezzi musicali, eccetera, eccetera. Non so come sia, me l'hanno parlato anche bene. Quindi, vabbè, per chi fosse interessato, trovate tutto sul sito, ovviamente, dell'Odeon. E come sempre, vi ricordiamo, telefonare prima perché c'hanno la botta. E va bene, e sbagliano sempre, cambiano programma all'ultimo. Così è. Direi che per gli eventi speciali, 12 e 16 giugno, dentro Caravaggio, una replica di questo docufilm su Caravaggio. Adesso vanno molto questi film artistici. Credo sia ben fatto, per chi non conoscesse bene l'opera del magnifico Michelangelo. Lo scultore di luce. No, questo è Michelangelo. Pensavo a Caravaggio. Michelangelo anche lui. Sì, perché c'era stato quello su Michelangelo. E niente, insomma, per chi non conoscesse l'opera di questo grandissimo artista, la volesse scoprire, sono sempre educative queste cose. Se pare fatto molto bene, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, prova a rispondere alle domande, diciamo, più particolari sull'artista. Un viaggio condotto da Sandro Lombardi attraverso i diversi luoghi caravaggeschi: Roma, Napoli, Malta, la Sicilia, tutte quelle terre in cui Caravaggio e i suoi inquietudini hanno lasciato traccia concreta. Il docufilm farà poi tappa al Sacro Monte di Varello. E vabbè, interessante. Più di quello su Elton John, di sicuro. Di sicuro si guadagnate in salute. No, vabbè, qualcosa c'è stato. A me ti è piaciuto abbastanza quello su Ray Charles. Non so se ti dico una. Sì, quello boiata. Con Jamie Foxx. Era un'operazione un po' diversa, però credo. Però portava fuori abbastanza vera, insomma, sì. L'immagine di Ray Charles. Credo, poi non lo so, nemmeno lo conoscevo il vecchio Ray. Non era amico. Contrariamente a quanto tutti pensano, non vi siete mai sentiti. Non vi siete mai visti. Mai. Va bene. Niente, questo è quanto. Ovviamente vorrei una nota. Ieri sera a New York sono svolti i Tony Awards. Coi Tony. Non vanno col Tony. Tutti coi Tony invece. Magari. Però nero. Vabbè, sono stati di Tony, tu New York. Cioè, che dicevano. Tony Awards è il premio per il teatro. Quindi ogni anno lei intendeva il Tony, sì, l'ho capito, sì. Di mettersi proprio nel Tony. No, ma non è va bene. Vai avanti, sorvoliamo sui Tony. Va bene. E mutato. Vai. No, non lo censuri, tanto no, è vero. Vabbè. Ho scoperto questo potere, però. Posso silenziare chi voglio. È divertente. Anche me lo posso mutare. Basta. Bello. Bellissimo. E va bene, quindi Tony Awards, niente, e chi ha vinto? Musical, hanno vinto tantissimi musical, tra cui quello, l'ho detto a caso, non perché sono ricoglionita, cosa che sono, però l'ho detto per un motivo, che hanno fatto il musical, come spesso stanno facendo ultimamente dai film, hanno fatto il musical da Beetlejuice di Tim Burton. Beh. E segue una scia di molti musical tratti da film. Ultimamente va molto in voga questa roba di trarre musical, non sanno più che inventarsi e quindi li prendono dai film. Devo dire che però i Tony Awards, essendo che il mondo del teatro è un mondo molto affine alla cultura gay, LGBTQ, ha almeno un po' un'infarinatura, c'avrà tutto la bandiera, ovviamente molto sciacquato, molto pinkwashing, lasciamo perdere. Borghesemente accettabile. Brutto il Pride che non ci piace, però nel dolore mi veniva da pensare agli Oscar, mi veniva da pensare a tutti questi premi dove assolutamente la cosa non si è, siccome questo è il 50° di Stonewall, quest'anno il Pride mondiale a New York, con tutte le sue contraddizioni, con tutto insomma quello a cui si può e si deve contestare. Il Pride a New York è a fine giugno, ti vorrei dire. perché c'è in tutto il mondo e poi arriva a New York. Non vorrei dire minchiata. Ma è nel giorno di Stonewall? È nel giorno sempre, di Stonewall, okay. Credo, sì, sì. E niente, e i Tony Awards almeno hanno portato così, c'era tutto il red carpet, tutto con la bandiera arcobaleno, vari artisti, esponenti della scena LGBTQ. Vabbè, piace vincere passerella, anche di moda. Però, va bene. E comunque mi ha colpito questa cosa dei fa film brodo, fa brodo. Dei spettacoli di Broadway tratti dai film. Broadway fa film. Brodo. Broadway fa sempre brodo. Molto bene. Qui si chiude? Si chiude. Io avrei una roba, no, però non vai. So se c'entra. Cosa? La volevo dire che venerdì 28 giugno ci sarà la Queer Parade a Firenze, proprio in risposta a tutti questi Pride fuoco sponsorizzati da Danone, ragazzi. Quest'anno vita snella Danone. Una roba agghiacciante, la Nestlé sponsorizza i Pride perché la prima bottiglia fu lanciata a Stonewall, allora noi lanciamo la vita snella, roba cosa? Pesa, boia. Sì, roba seria, e noi tutti, frosce, ribelli, transfemministe, eccetera, eccetera, non binarie, abbiamo lanciato il 28 giugno 2019 la Queer Parade, concentramento ore 14, piazza Santa Croce, Firenze, trovate ovviamente, tu ora non vi sto a leggere tutto perché... Sì. No, giorno. Ripetiamo, scusami, 28 giorno. Giugno 2019 Queer Parade giugno, contro l'omotransfobia, ogni oppressione, non un mattone di meno, fuori norma e fuori legge. Assemblea di Urania Occupata, assemblea transfrocia femminista Queer Firenze, lancia questo alternativa al fucking Pride della vita snella d'amore. Oh yeah, dignene. Partecipate numerosi e tutto quello che c'è nel mezzo. Dignenemone. E poi troverete il comunicato ovviamente online. Senti, ma lo sai che una delle canzoni che poi si sono rivelate rotte, sì, si titolava I'm in love with the Riot Girl. Era un po' dedicata a tutti voi, però non è rotta. Momento cuori. Riot per il lago. Cuori, momento drago. Di intenzione Riot per il lago. Intenzione è importante. No, solo intenzione lui. No, anche realtà. Va bene. Va bene. Ciao. Ciao. Grazie. Dai, tagliamo corto. Tornate con noi il prossimo lunedì. Ci dovremmo essere. Ci avviciniamo ci anche alla puntata. Ci sarà anche Rico Bado il prossimo lunedì. Ci avviciniamo alla puntata numero 100. Sarà scoppiettante. E poi non perdetevela, anche perché poi chissà cosa succederà. E come torneremo dalle vacanze estive. Ma che vacanze? Cioè, se deciso già vacanze? Ma che vacanze? Scusa, quando finisce la scuola, il liceo si va anche noi in vacanza. No, finiscono oggi. Ma regia mobile ci sulla spiaggia? Sarebbe bello. Sarebbe bello. Sulla spiaggia, sì. Ok, allora io mi compro la cremina e io il cappello di paglia e ci vediamo tutti in spiaggia. Il sasso verrà detto con una maschera e boccaglio. No, con un fenicottero rosa a ciambella. Sarà verde. Verde. Vabbè. Allora venerdì 28 giugno, verde, ragazze, ragazzi, unicorne, ragazzi, venerdì 28 ragazzi. Giugno 2019 di qui fate no, i furbi. Qui parete, abbiamo detto. Non fare i furbi. Via. Vi salutiamo. Ciao. Grazie per aver sostenuto il nostro disagio. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Però muto tutti, basta. Dico tutto il cazzo. Ora sto qui da solo. Sto qui una mezz'ora qui da solo. Non è vero, mando la sigla. Fuoco alle polveri. Go how Paul Berry Radio Bomba This is Radio Bomba.